Benvenuti, oggi facciamo un approfondimento su un testo, La classe potenziata di Lorenzo Redalie, parla di intelligenza artificiale a scuola. L'idea è vedere come l'IA può aiutare docenti, studenti, ma andando oltre le solite cose, no? Cerchiamo di capire cosa c'è di veramente, diciamo, originale o specifico nel libro. Esatto. Il testo parte sì da concetti base, magari il test di Turing, come funzionano i modelli linguistici, cose che forse si sentono spesso. Però poi arriva a strumenti e a metodi concreti per l'aula. E noi cercheremo proprio di distinguere, no? Cos'è già un po' nel discorso comune e cosa invece emerge come, specifico per la didattica da questo testo. Ok, allora partiamo. L'IA, molti la conoscono per gli assistenti tipo Siri o Alexa, o magari per Netflix che suggerisce film. Il libro ne parla, definisce l'IA, machine learning, deep learning, reti neurali, concetti importanti, certo, ma forse non è questa la parte più, come dire, innovativa che il testo vuole sottolineare. Sicuramente sono le basi, le fondamenta. Però ecco, la cosa interessante secondo me che il libro mette in luce è come queste basi poi si calano nella realtà della scuola. Voglio dire, una cosa è sapere che ChatGPT può scrivere un testo, un'altra è vedere come fa il libro con un esempio pratico, come può tirare fuori un'intera UDA, un'unità di apprendimento, completa di tutto, obiettivi, attività, persino una griglia di valutazione dettagliata. Non è solo automazione, È uno strumento di progettazione didattica, diciamo, avanzato. Qui sta un po' la specificità. Ah, capisco. Quindi non ci si ferma ai grandi nomi tipo ChatGPT, Gemini, Claude, che comunque il libro cita, ma si va verso strumenti forse più di nicchia, pensati proprio per l'insegnamento. Proprio così. Il testo ci mostra, ad esempio, interfacce come eduide.ai, fatta apposta per creare lezioni, o altre tipo PanQuiz e Quizalize, per fare quiz al volo e dare feedback personalizzati agli studenti. Ecco, questi esempi rendono l'idea dell'IA come assistente del docente molto più concreta, tangibile. Meno generica. Certo, il libro non è che sorvoli sui problemi, Discute anche il pro e contro della valutazione fatta dalle macchine, l'efficienza da una parte, ma anche i rischi, sai, i bias, o magari la freddezza rispetto a un feedback umano più ricco. C'è consapevolezza. E per gli studenti? L'idea che l'IA gli aiuti a fare i compiti, non so, risolvendo equazioni, come si vede in alcune figure del libro, quella è un'idea abbastanza diffusa, forse anche un po' temuta, no? Ma al di là di questo aiuto, diciamo, tradizionale, cosa emerge di più originale dal testo? Qui, secondo me, diventa ancora più interessante e forse meno scontato. Certo, c'è l'aiuto per i compiti, ma il libro esplora l'IA come tutor. Un tutor specializzato. Pensa a studenti che possono, che ne so, dialogare con Dante tramite character.ai o simulare conversazioni in un'altra lingua. Ma forse l'applicazione più particolare che viene descritta è quando l'IA si inserisce dentro metodologie didattiche precise, strutturate, come gli AES, gli episodi di apprendimento situato. Gli AES, cioè come funziona? Raccontaci meglio questo esempio. Viene descritto un progetto specifico, molto bello secondo me. Studenti che prendono sonetti di Petrarca, usano ChatGPT per capire i pezzi difficili, magari il linguaggio antico. Poi la parte creativa. Li riscrivono, in napoletano moderno, stile rap. E non finisce lì. Usano basi musicali, magari generate dall'IA stessa o royalty free, e registrano il loro pezzo. È un esempio forte, no? Mostra come l'IA non sia solo un aiutino, ma si integri in un processo complesso, creativo, attivo. Mette insieme letteratura classica, scrittura, tecnologia. Non è il solito l'IA mi fa i compiti. È proprio un co-creare qualcosa di nuovo, in modo collaborativo. Questo sì che mi sembra un aspetto originale rispetto a tante discussioni. Davvero affascinante questa idea dell'IA come partner creativo. E per altri aspetti, tipo la creatività con le immagini o anche la consapevolezza critica, che è fondamentale. Sì, il testo tocca anche questi punti. Fa vedere come usare strumenti tipo Midjourney per creare immagini. Ma non solo illustrazioni generiche. Magari copertine di libri, avatar per progetti social. Spiega anche l'importanza di saper dare le istruzioni giuste all'IA, il prompt engineering. Però, e questo è cruciale, bilancia tutto con l'educazione all'IA. Cioè, come verificare quello che l'IA produce, magari usando lo stesso Gemini per fare un fact-checking. o come riconoscere immagini finte, i deepfake, con strumenti appositi, tipo Hive Moderation. Insomma, entusiasmo sì, ma con occhio critico. Cita anche l'AI Act europeo, il quadro normativo. Quindi, riassumendo un po', quello che emerge da queste fonti, da questo libro, è che l'IA a scuola può essere vista non solo come, una scorciatoia o un tool per fare prima. Può diventare un vero partner nella progettazione didattica avanzata, un tutor su misura e persino un co-creatore in progetti complessi, come l'esempio di Petrarca dimostra benissimo. Chiaramente serve un approccio consapevole, critico, attento all'etica, alla verifica delle fonti. Non è una bacchetta magica. E magari, per lasciarci con una domanda aperta, il libro accenna al fatto che l'IA potrebbe supportare le diverse intelligenze degli studenti, le competenze del futuro. E se alla fine l'applicazione più originale, più rivoluzionaria, non fosse tanto uno strumento specifico, ma proprio il modo in cui l'IA ci costringe, come suggerisce il testo, a ripensare a fondo cosa vuol dire imparare, cosa significa essere intelligenti o competenti nella scuola di domani.